questa lunga mattinata che avevamo annunciato anche in precedenza. Ci dobbiamo purtroppo per certi versi occupare, come ha detto giustamente il compagno prima, di un altro po' di monnezza. Si tratta di questa serie che va in onda da 2 settimane fa su Rai 1 e dal titolo Gli anni spezzati, che pomposamente vorrebbe occuparsi appunto degli anni 70. E la prima delle 3 tranche è stata dedicata al commissario Luigi Calabresi, poi seguirà un'altra sul rapimento di Mario Sossi e l'ultima su un immaginario ingegnere della Fiat all'epoca dell'occupazione nel 1980 e della fine della lotta anche a seguito della famosa marcia dei 40.000 impiegati e quadri della Fiat. E, insomma, noi personalmente qui non abbiamo visto queste prime 2 puntate su Calabresi, ne abbiamo viste qualche frammento anche non brevissimo, in particolare della 2ª puntata, ma per quanto ci riguarda c'è ampiamente bastato per farci un'idea, anche se non particolareggiata, con riferimenti appunto particolareggiati su tutte e 2 le puntate, di che cosa in realtà si tratti e come si presenteranno poi in seguito anche le altre 2 tranche. Cioè, in realtà è soltanto un'opera di bieca propaganda. La serie è patrocinata dalla Polizia di Stato e questo già basterebbe, insomma, a farsi un'idea. Per inciso, Polizia di Stato, che tramite uno dei suoi sindacatini ha invitato gli aderenti e gli agenti in genere a non pagare il canone RAI per il 2014, ma attenzione, non riguardo all'indignazione che magari pure, che ne so, qualche poliziotto potrebbe avere avuto riguardo a un travisamento così smaccato della verità storica, quantomeno, ma per il fatto che invece lunedì scorso è andata in onda, ma su Rai 3, una puntata di presa diretta condotta da Riccardo Iacona, in cui si faceva un bello e lungo esame di tutti gli abusi di polizia e carabinieri, delle forze dell'ordine in generale, che hanno portato poi alla morte di svariate persone che erano in quel momento nelle mani appunto delle forze dell'ordine. Citiamo Cucchi, Uva, Aldrovani e così via. E perché qui, come dicevo anche nel corso della mattinata, non c'è manco più il discorso delle mele marce, ma c'è il discorso del fare quadrato, assolutamente senza se e senza ma, permettetemi di dirlo, riguardo a qualsiasi critica o indagine o chissà accusa nei confronti del comportamento delle forze dell'ordine. E su queste prime 2 puntate, appunto sulla questione Calabresi, ci sono stati vari interventi sulla stampa o sul web. Citiamo l'articolo di Andrea Colombo di ieri sul Manifesto, che non troviamo, mi sembra, ma comunque. E poi anche un intervento piuttosto lungo dello scrittore Christian Raimo, che si intitola Una monnezza chiamata Fiction, Gli anni spezzati, appunto, che almeno nel titolo è abbastanza in sintonia con quello che andavamo dicendo. Ci sono anche considerazioni che riguardano proprio la fattura cinematografica del lavoro, che è, insomma, lascia molto a desiderare anche dal punto di vista, oltre alla descrizione agiografica, dove agiografico è un aggettivo che riguarda proprio la biografia dei santi, nei riguardi del personaggio Calabresi, ma anche su svarioni storici, insomma, che ci sono stati nel corso di queste prime 2 puntate. E la scelta è stata di far raccontare da una poco credibile figura di poliziotto, una voce fuori campo che poi diventa anche un personaggio, insomma, tutta la vicenda. Quello che sicuramente ci preme dire che non viene assolutamente, ma nemmeno nei minimi termini, ricostruita la vicenda che ha portato poi a, diciamo, all'onore delle cronache, diciamo così, la figura di Calabresi all'epoca e poi in tutti questi anni che hanno seguito, fino addirittura a quello che ho visto e spero che sia una boutade, cioè di un processo di beatificazione di Luigi Calabresi come martire cristiano. Viene dipinto, noi sappiamo, insomma, lo ripeto perché magari qualcuno può non saperlo, che Calabresi era presente all'interrogatorio di Giuseppe Pinelli, il compagno anarchico che fu fermato e trattenuto fra l'altro illegalmente nei locali della questura di Milano all'indomani della bomba del 12 dicembre 69 a Piazza Fontana. E nel corso del quale, come poi tutto il movimento nelle indagini assolutamente autonome che seguirono da parte appunto della controinformazione e del Soccorso Rosso, fu abbastanza chiaro, al di là di tutti i depistaggi e anche delle versioni risibili date dalla questura, che era morto appunto nel corso dell'interrogatorio. La dinamica non è chiarissima, se appunto percosso mortalmente e poi gettato dalla finestra, ma quello che è sicuramente chiaro è che non è andata come hanno raccontato loro, cioè che Pinelli a un certo punto, dopo che gli era stato detto che qualche suo compagno aveva confessato la strage, si sia gettato dalla finestra al grido "è la fine dell'anarchia". Questo è assolutamente assurdo, come è assurda anche la versione che alla fine dell'inchiesta fu data dai inquirenti, cioè che Pinelli era stato colpito da un malore attivo, che è, io non mi chiedete, non telefonate per chiedermi che vuol dire, bisogna andare a riprendere gli atti, ma insomma già da sé questa definizione fa assolutamente ridere, se non ci fosse di mezzo la vita di un compagno, e richiama per certi versi analoghe costruzioni assurde, come quella per esempio sull'omicidio di Carlo Giuliani a Genova nel 2002, per cui si disse che il proiettile che l'aveva colpito era stato sparato in aria, non ad altezza di testa, della testa di Carlo, ed era stato deviato da un sasso lanciato dai manifestanti, quindi a chiamare praticamente una correità, quantomeno, se non una responsabilità diretta. Bene, tutto questo dentro le due puntate non c'è assolutamente, e anzi Calabresi viene dipinto come un martire, se non cristiano. Comunque un martire contro cui si scatenò una campagna mediatica denigratoria. In realtà la campagna mediatica denigratoria fu soltanto una opera attenta di controinformazione, e anche fra l'altro portata avanti dal quotidiano Lotta Continua, che portò poi a un processo contro il suo direttore Pio Baldelli, e che però appunto poi alla fine, ovviamente in un processo per diffamazione si devono esaminare gli atti secondo i quali ci sarebbe stata questa diffamazione, e quindi le responsabilità di Calabresi e della questura nei confronti della morte di Pinelli. E pure questo non ricordo esattamente, perdonate, come si concluse, ma certamente non portò alla verità su questa vicenda, che però è una verità che noi tutti conosciamo, andiamo ripetendo da quel 12 dicembre del 1969. È il contesto proprio che è venuto a mancare, no? Anche volendo essere attenti all'ambientazione in cui viene collocata questa figura del commissario. Ed è il contesto che precede la bomba a Piazza Fontana, alla Banca dell'Agricoltura, è il contesto in cui insomma, l'atteggiamento delle forze di polizia in genere è completamente diverso da quello che questa fiction fa apparire, cioè di un commissario e anche, diciamo, attraverso di lui complessivamente anche da altri appartenenti alle forze di polizia, di un atteggiamento di dialogo verso anche la contestazione, verso, diciamo, i manifestanti, verso i sovversivi, verso, insomma, no, di dialogo e un atteggiamento di comprensione, pur nella fermezza di quella che può essere attribuita a un funzionario di polizia. perché insomma, se c'è, per chi se lo ricorda e non si basa sulle ricostruzioni di questo tipo, insomma, erano appena pochi mesi prima, c'erano state due occasioni in cui le forze di polizia avevano sparato sui manifestanti, insomma, era successo ad Avola, era successo a Battipaglia, insomma, in manifestazioni non fatte da estremisti, studenti, eccetera, ma braccianti, comunque contadini, insomma, manifestanti niente affatto collocabili in quello che era l'area dell'estremismo, insomma, dell'epoca. Quindi c'era un uso e un atteggiamento da parte delle forze di polizia, di chi le comandava evidentemente, anche perché non è solo questione degli agenti, che era estremamente deciso, insomma, deciso fino al punto che l'uso delle armi da fuoco non era non solo infrequente, ma era più che legittimato. Quindi difficile ritrovare poi in quella figura tratteggiata in quel modo una corrispondenza con quello che era effettivamente diciamo il porsi da parte dei tutori dell'ordine verso il disagio sociale, la contestazione, le manifestazioni, le proteste, eccetera eccetera. Viceversa era tutt'altro, erano i tempi in cui l'ordine si invocava, no? C'erano i partiti al governo, la Democrazia Cristiana e anche ovviamente i partiti di destra che invocavano ordine a tutti i costi, ordine e disciplina, insomma, queste erano le parole d'ordine, non era dialogo e comprensione, se dobbiamo sintetizzare, insomma, un atteggiamento così, insomma, viene fuori questa figura viceversa del commissario Calabresi, che è di tutt'altra impronta, insomma, no? Che anzi spiega al poliziotto che lo coadiuva come bisogna essere duttili, comprensivi, anche se poi dall'altra parte addirittura, insomma, c'è un punto che dice espressamente, dice: vabbè, tu vedi, è inutile cercare di essere comprensivi, però dobbiamo farlo, perché questi non vogliono comprendere, però dobbiamo farlo lo stesso. Insomma, quel periodo non era affatto così, insomma, poi che ci siano stati singoli rappresentanti delle forze dell'ordine che possono avere avuto atteggiamenti diversi, ma sicuramente non era questo l'atteggiamento dominante né risultante nella figura stessa del commissario Calabresi all'indomani del fattaccio, appunto, della morte di Pinelli, insomma, caduto dal quarto piano della questura, con lì i presenti all'interrogatorio che l'accompagnavano, che non vengono, diciamo, rappresentati bene, con diciamo, l'atteggiamento del questore guida, che fu subito quello di coprire con dichiarazioni, insomma, nei confronti non solo di Pinelli ma di tutta la situazione, che erano perfettamente confacenti al fatto che la bomba doveva essere stata posta dalla sinistra, che erano gli anarchici a aver fatto l'attentato a Piazza Fontana, senza prendere in considerazione nessun'altra ipotesi, quindi con una ipotesi, con una soluzione precostituita, che era quella di addossare tutto all'estremismo di sinistra e in particolare agli anarchici. Questo fu chiaro, e fu chiaro, fu chiaro manco per niente all'inizio, insomma, la stessa stampa, Valpreda era il mostro, Pinelli, vabbè, ormai era morto, ma Valpreda era il mostro e così via, riconoscimenti falsi che avvennero in questura, il tassista Rolandi famoso che dice sì, l'ho riconosciuto, invece non era vero, insomma, tutta una serie di circostanze che poi, morto Pinelli, si concentrarono, l'attenzione si concentrò su Valpreda, che era il mostro, la belva umana, fu chiamato sugli organi di stampa, insomma, Corriere della Sera, ma anche l'Unità, pur con qualche difficoltà, con qualche timore, insomma, non si sottrasse a questa suggestione che veniva fortemente, insomma, presentata all'opinione pubblica, e fu solo forza, coraggio e merito del movimento rivoluzionario di quegli anni di ristabilire i parametri giusti, fare la controinformazione, insomma, su tutte queste cose. Ecco, sullo sceneggiato, perché poi lo sceneggiato arriva fino alla morte, all'assassinio di Calabresi nel 1972, di questo non c'è assolutamente traccia, no? Cioè della sconfessione stessa di questo architrave montato su è inutile dire da questo o da quel personaggio, diciamo che era il concentrato di quello che era l'intenzione di Saragat, presidente della Repubblica, che subito si congratulò e disse beh, per l'arresto dei Pinelli e compagnia bella, fece subito, insomma, avallò questa situazione di fatto, e quindi dal massimo vertice delle istituzioni fino a tutti gli altri componenti a scendere, appunto dal questore ai giudici eccetera eccetera, che inizialmente non ebbero alcun timore di schierarsi sul dato di fatto, e cioè su quello che le prime indagini della polizia, secondo appunto gli schemi dell'epoca, avevano individuato nella pista anarchica il responsabile di tutte queste cose. Questo non c'è, è assolutamente mancante, e questo probabilmente riguarda il fatto che chi sono stati i consulenti, cioè chi l'ha scritto sto coso, no? Sì, fra l'altro c'è da chiedersi appunto, infatti, questo. Perché qui c'è appunto una presunzione di validità storica che è abbastanza facile smontare, oltre che con i fatti, anche andando a guardare i consulenti. Io volevo rimarcare che alla fine della seconda puntata, nei titoli di coda compaiono delle scritte. Una dice che per la strage poi è stato incolpato alla fine di tutto un iter processuale, che fu pure questo assurdo, con lo spostamento del processo da Milano a Perugia, una situazione evidentemente molto più calma e controllabile, ma viene appunto addossato completamente al gruppo di fascisti di Padova, Freda Ventura, senza quindi fare cenno a tutte le collusioni e manovre, insomma, non mi viene il termine più pesante, depistaggi anche eccetera, quindi partecipazione attiva, ecco, collusione già farebbe sembrare una cosa diversa, meno grave, che fu operata appunto dai servizi segreti, che il PC continuava a chiamare deviati, ma insomma fa ridere pure questo, perché i servizi segreti non erano deviati per niente, nel senso che poi era quello uno dei loro compiti, cioè agire sul cosiddetto nemico interno. E poi una nota che dice che i parenti delle vittime, che sembrerebbero essere stati consultati, ma non è chiaro chi e che cosa effettivamente abbiano detto, hanno avuto pure la condanna a risarcimento delle spese processuali. E questi cosiddetti, lo dice anche su questa questione dei cosiddetti consulenti storici, ne parla appunto anche Christian Raimo in questo articolo apparso sul web di cui abbiamo parlato, ma andiamo a vedere meglio di chi si tratta. Non sono storici, tanto per cominciare. Di storici in Italia ce n'è insomma una pletora, più o meno collocati eccetera, quindi non ci sarebbe che l'imbarazzo della scelta, e probabilmente non c'è nemmeno bisogno di andare a prendere gli estremisti cosiddetti. Allora, uno è Adalberto Baldoni, che è stato anche caporedattore del Secolo d'Italia, l'organo del Movimento Sociale al tempo, e presso cui lavorava già negli anni 70 ai servizi interni, quindi la cronaca interna, quindi proprio i fatti di cui stiamo parlando, dopo essere stato anche alla guida del FUAN, che era l'organizzazione universitaria fascista, alla Sapienza di Roma fino al 71. E poi Luciano Garibaldi, ex giornalista del Tempo e del Giornale di Montanelli, che è l'autore del libro Gli anni spezzati, che è uscito da poco da una casa editrice di area cattolica, ma area più che cattolica non solo, ma anche un'area anticonciliarista, cioè i lefebriani, per dirla brevemente, cioè quelli che sono stati subito all'opposizione del Concilio Vaticano II. E poi dunque Garibaldi è un personaggio proprio perdutamente innamorato di Calabresi, ma che per esempio per i fatti di Genova si è espresso in questo modo contro la persecuzione giudiziaria e mediatica dei poliziotti che salvarono la città di Genova durante il G8 del luglio 2001 dalle orde fanatiche di teppisti anarchici e comuniste pagati dagli sceicchi del petrolio. Cioè, veramente non, questo sarebbe uno storico. Però l'altro consulente dovrebbe essere di sinistra. Si tratta invece di Sandro Provvisionato, che è stato direttore del settimanale Terra, fra l'altro, e che però si è distinto per tutte le teorie ampiamente profuse di stampo complottista e dietrologico, autore di un libro Misteri d'Italia e di un altro al titolo Anni di Piombo, insieme ad Adalberto Baldoni, fra l'altro provvisionato e anche coautore di un, insieme a Ferdinando Imposimato, di un libro di cui però adesso mi sfugge il nome. 55 giorni. No, quello prima forse. Deve morire. Deve morire, sul caso Moro, in cui appunto ne abbiamo parlato qualche settimana fa molto molto approfonditamente, lo trovate tra i podcast del nostro sito, in cui appunto si sposa completamente la teoria piccista di manovre DC, servizi segreti degli Stati Uniti e chi più ne ha più ne metta, sulla questione appunto del rapimento e dell'uccisione di Moro in funzione anti PC e del suo ruolo nel governo dell'epoca, anche se esterno. E insomma, questi sono i famosi consulenti storici, che vale la pena. C'è una sequenza in cui si vede a un certo punto una perquisizione. Sì. Una perquisizione, mi sembra, da Pinelli, credo. No, la perquisizione di un compagno, così, dove si vede un manifesto contro Casa Pound. Siamo nel 69, insomma, se questi sono gli storici, Dio ci salvi dagli storici di questo genere. Quindi andrebbe fatto anche un commento all'atere su come la televisione italiana appunto parla di storia, a parte i pipponi, passatemi il termine, di Paolo Mieli, che parla soltanto del fascismo e della guerra. Pare che in Italia non è successo altro, si potrebbe magari chiedergli perché non parla di quello che è successo dopo, di tutte le lotte operaie e bracciantili negli anni seguenti, o anche parlare del fascismo di quel periodo con un'ottica che non sia quella appunto dell'alta politica, fra virgolette, ma insomma andare un po' a vedere, anche questo dovrebbe essere il compito dello storico, quello che succedeva effettivamente nel paese. Io fra l'altro direi, anche rispetto a quello a cui ho accennato prima, cioè dell'invito a non pagare il canone da parte di questo sindacato di polizia, il canone RAI, in risposta alla trasmissione di Iacona riguardo agli abusi delle forze dell'ordine, che a me non sembra un caso che siano andati in onda insieme, insomma, come una sorta di riparazione, fra virgolette, rispetto a questo caso. Poi appunto il patrocinio della polizia in questo genere, a parte il caso particolare, ma in questo genere di opere fiction o meno, prevede anche insomma un controllo da parte di questo patrocinio, che altrimenti viene ritirato. Io ricordo una serie di un ispettore di polizia, non mi ricordo, Manara, no, boh, vabbè, insomma, che era però un personaggio così abbastanza fuori dalle righe, fuori un po', sempre uno sceneggiato poliziesco. Si chiamava Coliandro. Coliandro, sì, avevo capito Coriandolo. Coliandro, e non mi ricordo da chi era interpretato, in cui non si vedeva una macchina della polizia, per esempio, perché la polizia di Stato non la concedeva, perché appunto non riteneva che fosse in sintonia questo tipo di sceneggiato. Qui gli avrebbe dato proprio caserme intere se avesse potuto. Poi anche una nota che può essere secondaria, qualche intervento come quello di Andrea Colombo ci è passato sopra, perché dice adesso non stiamo a vedere anche il livello artistico, ma insomma, siccome il canone viene pagato da un sacco di italiani e di italiane, insomma, vedere anche un'opera così raffazzonata, a parte i contenuti, anche dal punto di vista estetico, con questo Calabresi interpretato da Solfrizzi, con questi capelli incollati alla testa, questa ricerca della somiglianza, che però per esempio anche per quanto riguarda Romanzo di una strage, il film di un paio d'anni fa, sempre su, incentrato anche parecchio sulla figura di Calabresi, questa somiglianza stranamente non viene invece ricercata per altri personaggi, come per esempio la moglie, che in questo caso era impersonata da Luisa Ranieri e non ricordo bene da una giovane attrice nel caso del film, insomma, per cui questa ricerca della somiglianza anche grottesca certe volte. Su Solfizzi qualcosa va detto, perché si può essere chiamati a interpretare anche Jack lo squartatore, perché ovviamente sei un attore e fai le parti che ti danno, se ti convince comunque il progetto, anche se ti convince, insomma, poi non andiamo a vedere adesso nel dettaglio. Tra però ti teniamo famiglia. Sì, no, vabbè, io posso fare un'opera in cui devo fare Hitler o devo fare Mussolini, cioè io non me la prendo con Rod Steiger perché ha interpretato Mussolini, no, non è, qualcuno dovrà interpretare. Il problema è appunto l'opera nel suo complesso. Beh, Solfizzi ha sposato completamente la figura di Calabresi, non credo che gli fosse richiesto se lo doveva interpretare, anche se insomma c'ha quest'area così de vittima predestinata. Per, almeno per la parte che io personalmente ho visto, fino a dichiararsi appunto sorpreso, perché lui in passato aveva, poi non so quanti anni abbia, quindi che cosa possa aver vissuto, credo niente, ma magari letto, c'aveva un'idea, ha detto che in effetti le cose fossero più o meno andate come il movimento poi ha raccontato che siano andate, invece poi si è accorto che le cose non erano così, che Calabresi era questo martire sottoposto a questo processo denigratorio mediatico. Insomma, pure su questo, che dire, un bel tacer non fu mai scritto. Sì, giusto perché per aggiungere due parole, perché a volte forse noi possiamo commettere l'errore di pensare che chi ci ascolta, normalmente l'ascoltatore di Onda Rossa lo sa le cose, però fortunatamente ascoltano pure tante persone giovani, e siccome se noi andiamo a rivedere, se noi andiamo a vedere, per esempio ogni tanto vengono fatte ricerche nelle scuole superiori su quale pensiero si ha degli anni 70, no? E quindi esce fuori per esempio che molti studenti pensano che la strage di Stato, la strage di Piazza Fontana, è stata fatta dalle Brigate Rosse, all'epoca manco erano nate peraltro, ma comunque, quindi magari, se giusto, volevo aggiungere due parole per inquadrare il contesto avvenuta questa cosa, cioè senza farla lunga, però brevemente, consideriamo che c'era un fortissimo conflitto sociale, stiamo nel biennio cosiddetto rosso, insomma quello che poi in realtà dal 67 era partita la Fiat, poi c'era stato il 68 e c'era la lotta nel 69 di nuovo rilanciata da Fiat, ma che poi coinvolgeva tutti i metalmeccanici per l'inquadramento unico, per la contingenza, insomma per una serie di elementi, per l'uguaglianza fra operai e impiegati all'interno del contratto nazionale, quindi c'era un fortissimo movimento di lotta diffuso sul territorio, e la strage di Piazza Fontana fu realizzata proprio per cercare di mandare un monito da un lato e bloccare dall'altro questi processi di lotta. Non a caso poche settimane dopo fu firmato il contratto nazionale dei metalmeccanici, e qualche mese dopo, nel maggio del 70, fu fatto lo statuto dei lavoratori. Contemporaneamente c'è stato il tentativo del mai ben chiarito del golpe borghese, quindi diciamo un quadro generale in cui più strumenti si usavano, da quelli riformisti con lo statuto dei lavoratori a quelli invece fascisti, sempre però operati dallo Stato per bloccare quel movimento di lotta. E questo ci spiega ancora di più perché la realtà storica nella quale si è cercato di mettere in mezzo i compagni anarchici e la figura di Calabresi, che poi negli ultimi anni peraltro è stata riportata in auge, insomma io c'ho una certa età, mi ricordo che era uno insomma che era sparito dall'immaginario collettivo, invece saranno una decina d'anni, forse qualcosa di più, a partire dalla vicenda Sofri, insomma, che si dipinge questa figura eccezionale di poliziotto, e quindi questo niente, giusto perché così chi ci ascolta capisce come queste operazioni poi siano connesse anche con gli elementi di conflittualità che si iniziano a vedere nella società in questo momento, e quindi magari c'è bisogno anche di riaffermare la memoria storica di chi ha vinto, cioè dei padroni, per cercare di bloccare eventuali sviluppi dal punto di vista dei movimenti. Poi ha citato Sofri, io non so se mi è sfuggito, ma Sofri che fu condannato insieme a Marino, Pietro Stefani e Bonpressi per l'omicidio Calabresi non ha parlato, e ricordo anche in questo, a seguito proprio del processo Sofri, chiamiamolo così per rapidità, e di quello che dicevi tu, che poi si arrivò all'incontro pilotato da Napolitano tra la vedova di Calabresi e Lucia Pinelli, insomma, che ci lasciò abbastanza sconcertati e perplessi, non ovviamente nei confronti della vedova di Pinelli, ci mancherebbe altro. Non so se abbiamo qualcosa da aggiungere. No, è solo questo, che il senso di queste operazioni va male, ma è senz'altro quello che adesso ricordavi tu rispetto a quel periodo, quindi di riscrittura. Però diciamo, qual è l'effetto che poi si produce, no? L'effetto che si produce è comunque negativo, anche mettendosi nella logica diciamo che non è la nostra, anche volendo immedesimarsi nel tentativo di riscrivere un pezzo di storia o comunque un periodo particolare dove c'erano aspettative di un certo tipo, dove il problema dei comunisti, la sinistra, tutto quello che si vuole, ma riprodurlo nel modo proprio becero, estremamente brutale sotto tutti i punti di vista con cui è stato fatto, non serve neanche a, secondo me, a formare quei elementi che un potere occulto, se vogliamo chiamarlo così, vorrebbe plasmare a suo piacimento, perché non lascia veramente niente una cosa del genere, cioè non lascia neanche quel sentimento di identificazione col personaggio che in questa circostanza si è voluto diciamo sottolineare, quindi la figura del commissario. Il prossimo sarà il giudice, non a caso il titolo è il commissario, il giudice, l'ingegnere, e quindi volendo quasi simboleggiare, no, tre aspetti, due che attengono alla giustizia, quindi al massimo manca Ervesco, ma lì c'è sceneggiati sui preti ce ne so tantissimi, però volendo proprio ricostruire intorno a queste figure emblematiche un'idea, un'identità di una società, di un paese, secondo me è mancante, perché insomma i giovani di oggi, per quanto sprovveduti dal punto di vista delle conoscenze eccetera, ma sono pure altrettanto smaliziati dal punto di vista della finzione, quindi presentare una finzione così rabberciata, così fatta male, secondo me non è neanche convincente, quindi a maggior ragione credo che, e anzi lo spero, abbia un effetto quasi contrario, insomma, da questo punto di vista. Ma io a questo proposito posso dire che il mio posto di lavoro, dove spesso vengono commentate tutte le i vari polpettoni di Canale 5, Elisa di Rivombrosa, cioè cose che io proprio non so di che parlino, questo non è stato commentato, quindi secondo me, se non l'hanno manco visto, questa diciamo platea che insomma si ciba di questo tipo di fiction, che il lunedì, cioè se incolla su Rai 1 qualsiasi sia la cosa che viene trasmessa, perché in genere è il giorno delle fiction, ma probabilmente si è annoiata, ha cambiato canale, quindi forse appunto a sostegno di quello che stavi dicendo. Allora, concludiamo quindi questa lunghissima mattinata. Io vi ricordo che è in corso alla Certosa, via